giovedì 28 maggio le aperture, come detto, il Vaticano è ancora in primo piano per il Corriere della Sera. Un cardinale tra i sospettati è un italiano, questo è il titolo sull'inchiesta del Vaticano e sui corvi in Vaticano. Repubblica parla invece una delle spie sotto anonimato, ecco chi sono i corvi del Vaticano. Per il Messaggero un cardinale guidò il corvo, l'animale più citato di questi giorni sarà il corvo. Per il Sole 24 Ore, l'edizione del lunedì, tasse, tariffe, imprese sotto tiro, aumenti medi del 15%, questo è il titolo di apertura. Mentre La Stampa apre sulla Siria, scontro all'ONU sulla Siria, così anche il Secolo XIX, la strage in Siria spacca il vertice ONU. Per il Giornale, il governo si sbrighi, niente IMU, ora si può. Mentre l'Unità si concentra su Formigoni, il titolo è Formigoni non può più restare, un'altra vicenda che vedremo dai giornali. Prima però, visto che parliamo di divorzio breve, oggi Repubblica fa una pagina, pagina 28, dal titolo Hotel Divorzio. È la nuova moda nata in Olanda e che si sta diffondendo negli Stati Uniti. Volete divorziare? Andate in un albergo, passate un weekend, entrate sposati, uscite divorziati. Questo Hotel Divorzio, amarsi e dirsi addio negli Stati Uniti, basta un weekend. Altro che divorzio breve, divorzio rapidissimo, questo è divorzio immediato, un weekend. Federico Rampini racconta a pagina 28 di Repubblica, benvenuti al Grand Hotel Divorzio, fate il check-in venerdì sera da sposati, la domenica uscite single e liberi da ogni vincolo. L'America aveva già i matrimoni express celebrati a Las Vegas. Ora arriva la loro naturale evoluzione, divorzi fulminei per risparmiare denaro, stress, inutili complicazioni. In una nazione dove ormai un matrimonio su due finisce in divorzio, si apre un nuovo business su misura per quelle coppie che vogliono rendere la procedura istantanea e indolore. Una tariffa che va da un minimo di $3.500 a un massimo di 10.000, include anche la parte alberghiera, include anche gli avvocati, tutto fatto in maniera molto discreta. Che ne so, arrivate lì, non è che vi danno la stanza ovviamente, ma due stanze separate, neanche vi incontrate, ci sono i legali, eccetera. È tutto nato da un olandese che ora sta esportando tutto questo negli Stati Uniti. L'olandese si chiama Jim Halvens, ha 33 anni, viene lanciato come una sorta di genio del settore dal New York Times e ha studiato tutto. Ricorda a chi storce il naso di fronte a questa trovata. Halvens ricorda i costi economici tremendi che il divorzio rappresenta già oggi, un'industria che ha un fatturato negli Stati Uniti di $175 miliardi l'anno, in larga parte catturati dagli avvocati, che ovviamente non saranno molto contenti di questa novità, e dunque presenta questa formula Divorzio Express. Ora, questa forse è un'esagerazione, è un'americanata o un'olandesata americanata. Sta di fatto che il tema molto sentito anche in Italia, ne parleremo più avanti, forse non arrivare a misure estreme come questa del weekend in hotel per divorziare, però la trovate a pagina 28 di Repubblica. Mentre vi voglio segnalare a pagina 21 della Stampa quello che è successo, è una partita di seconda categoria in Sardegna che ci riporta però a vicende di quest'anno ben più celebri, no? Che sono andate, sono un po' giù ancora tra il gozzo e lo stomaco. Il portiere confessa, era gol e fa retrocedere la sua squadra. Peter, ti ricorda qualcosa? Il portiere confessa, era gol? È successo non in Serie A, è successo a Nuoro. Elio Pirari racconta da Galtellì in provincia di Nuoro, a pagina 21, un'intera pagina, 60° minuto del secondo tempo, 60° minuto diciamo, quindi secondo tempo, Calagonone tutta vista, si era sull'1-0 per il Calagonone, sinistro dai 20 metri, palla che entra di mezzo metro, anche questa me la ricordo più o meno, palla che entra di mezzo metro, gol, non gol, l'arbitro non vede, i giocatori del Calagonone protestano, era gol, ne spelle un paio, al che si avvicina al portiere l'arbitro perché vedeva troppe proteste dice, e chiede al portiere, era gol? E il portiere dice, sì, era gol. Questa invece me la ricordavo un po' diversa, questa risposta, se penso alla Serie A. Sì, era gol. L'arbitro non ci crede, glielo richiede ancora. È sicuro era gol? Sì, lo ammetto, la palla è entrata. L'arbitro non può far altro che convalidare il gol. Il pubblico di casa applaude il portiere ospite per un minuto, partita sul 2-0, poi finisce 2-1. Risultato, la squadra del portiere che ha messo il gol viene retrocessa, era una sorta di spareggio. Ovviamente ci si divide, c'è chi dice ha fatto bene, è stato onesto, il portiere dice ebbene sì, io mi ha chiesto e ho detto la verità, che dovevo fare? Era gol, e quindi me l'ha chiesto l'arbitro, ho detto è gol, no? Questo portiere, tra l'altro, si chiama Giuseppe Gambaiani, è tifosissimo del Milan, al che subito gli chiedono, scusi, ma guardi che Buffon, si ricorda Buffon, quest'anno ha detto il famoso gol, se me l'avesse chiesto l'arbitro io gli avrei detto che non era gol, e lui, vabbè, ma Buffon, guardi, è il mio idolo, ce l'ho appeso in camera, il portiere più forte al mondo, e comunque secondo me se l'arbitro gliel'avesse chiesto anche Buffon avrebbe detto che la palla era entrata in porta. Bah. Comunque, sta di fatto, il portiere confessa era gol, fa retrocedere la sua squadra. Ora la Federazione Italiana Gioco Calcio sta ipotizzando il ripescaggio per meriti sportivi. Ecco, questa veramente io non la capisco. Cioè, tutto bene, era tutto a posto, uno che ha detto era gol. La Federazione Gioco Calcio deve premiare forse la Federazione per meriti sportivi perché uno ha detto che era gol, cioè ha fatto il proprio dovere, quello che dovrebbe essere, no? Capite? Essere leali deve essere premiato con una promozione per meriti sportivi. Era tutto perfetto, la rovina finale viene dalla federazione, forse. Noi ci fermiamo per 5 minuti. 24 mattino. Le 7:36 minuti, allora cari ascoltatori, molti giornali aprono ancora sulla vicenda dei corvi, corvi che volano sul Vaticano e fanno arrivare documenti riservatissimi, li fanno uscire dal Vaticano, e alcuni di questi documenti poi sono stati pubblicati, sono alla base del libro Sua Santità, scritto dal giornalista Gianluigi Nuzzi, che sarà nostro ospite alle 8:20. Questa vicenda è l'arresto del maggiordomo del Papa, ma non è finita, perché si vocifera di altri corvi. Oggi sicuramente lo scoop lo fa Repubblica. Ecco chi sono i corvi del Vaticano, parla, e lo fa sotto anonimato in un'inlunga intervista, pagina 2-3, fatta da Marco Ansaldo, uno dei corvi. Chi sono i corvi? La mente dell'operazione non è una sola, ma sono più persone. Ci sono i cardinali, segretari personali, monsignori, pesci piccoli, donne e uomini, prelati e laici. Tra i corvi ci sono anche le eminenze. Ma la segreteria di Stato non può dirlo e fa arrestare la manovalanza come Paoletto, il maggiordomo del Papa, che non c'entra nulla se non per aver recapitato delle lettere su richiesta. Così inizia la conversazione di 3 ore in un quartiere alto di Roma Nord, in un tavolino di un bar, con una persona che si guarda sempre intorno, che tormenta un anello, che ogni tanto mi chiede di spostarci di posto, e lo fa sotto anonimato, dice mi posso fidare di lei, ed eccolo qui che parla, uno dei corvi del Vaticano. Perché lo fate? Perché lo scopo dei corvi è quello di far emergere il marcio che c'è dentro la Chiesa in questi ultimi anni, a partire dal 2009-2010. Ma chi siete? Chiede Marco Ansaldo. Ci sono quelli che si oppongono al segretario di Stato, Tarcisio Bertone, quelli che pensano che Benedetto XVI sia troppo debole per guidare la Chiesa, quelli che ritengono che sia il momento giusto per farsi avanti. Alla fine così è diventato un tutti contro tutti, in una guerra in cui non si sa più chi è con chi e chi è contro. E niente, racconta di questo scontro di potere. Al centro c'è appunto il segretario di Stato Bertone, che avrebbe troppo potere. Questo ha spinto molti dei corvi a far emergere documenti. Tutto è nato quando furono limitate le libertà di indagine a Monsignor Carlo Maria Viganò, che stava svolgendo indagini su episodi di corruzione all'interno del Vaticano. Viganò fu spostato a Washington, alla Nunziatura. Così i cardinali capiscono che il Papa è debole e vanno a cercare protezione da Bertone. Il Papa capisce che deve proteggersi, convoca 5 persone di sua fiducia, 4 uomini e una donna, che sono i cosiddetti relatori. ad ognuno di questi dà un ruolo, e da lì nasce la fuoriuscita di documenti. Cominciano a uscire, sono individuati dei canali, sono individuati dei giornalisti. E come escono questi documenti? Escono a mano. L'intelligence vaticana, che è coordinata da un giovane ex hacker di 35 anni, con strumenti più evoluti di quelli della CIA, non può farci nulla perché i cardinali sono abituati a scrivere i loro messaggi a penna e a dettarli. Li fanno poi recapitare a chi vogliono brevi manu. Riguardo al ruolo dell'ex presidente dello IOR Ettore Gotti Tedeschi, letteralmente cacciato, risponde questo corvo, sotto anonimato, intervistato da Repubblica. Lui non c'entra nulla. Quando giovedì il Papa ha saputo del licenziamento di Gotti, si è messo a piangere per il mio amico Ettore, il Papa che piange. Sì, ma poi si è arrabbiato moltissimo e reagito dicendo che la verità su questa vicenda sarebbe venuta fuori. Ma non si poteva opporre, avrebbe potuto farlo, risponde l'interlocutore, ma opporsi avrebbe significato una frattura clamorosa con il suo segretario di Stato. Ora il Papa è disperato, racconta questo corvo, e non so come altro definirlo. Ma Paoletto, cioè il suo maggiordomo, non è il corvo. I corvi sono tanti, tutt'al più lui è stato usato da qualcuno. Insomma, un'intervista clamorosa. Confesso, uno dei corvi sono io, lo facciamo per difendere il Papa e denunciare il marcio della Chiesa. Così parla, intervistato da Marco Ansaldo su Repubblica. Ma invece il Corriere della Sera dice che c'è anche un cardinale tra i sospetti ed è italiano, sarebbe stato già in qualche modo identificato, anche perché il maggiordomo arrestato sta parlando, così dice il Corriere della Sera. C'è poi l'articolo a pagina 3 di Gian Guido Vecchi. Le voci in Vaticano sono che il quadro delle accuse è già definito e che un cardinale italiano appunto finisce nella lista dei sospetti. Una commissione, la commissione istituita da Papa Benedetto XVI, dice che appunto rispetto all'arresto del maggiordomo del Papa o all'interrogatorio di funzionari proseguiti anche ieri, il codice penale del Vaticano, che recepisce nella sostanza questo italiano, prevede invece che i cardinali siano dispensati dall'obbligo di comparizione davanti al giudice per deporre come testimoni e possano scegliere il luogo dove essere interrogati, magari anche a casa. Insomma, la situazione all'interno del Vaticano è davvero complicata. Lasciamo il Vaticano. Veniamo, tanto ne parleremo poi alle 8:20 con Gianluigi Nuzzi, per capire che aria tira l'aria dei corvi, ovviamente, sul Vaticano. Veniamo in Italia, dove ieri il ministro Giarda, in una domenica sonnacchiosa, ha detto, tra l'altro in un'intervista a Radio Vaticana, appunto, che la spending review ora si può attuare. E alla domanda quanto è la spesa aggredibile nel giro di poco tempo, ma diciamo si può aggredire una spesa di 100 miliardi di euro nel breve periodo, e invece, pensando più a regime, più a lungo periodo, 300 miliardi di euro. Ma come 100 miliardi di euro? Cioè, ce lo dicono così, che si possono recuperare 100 miliardi di euro nel giro di poco tempo. È vero che il supercommissario Bondi ha lo scopo di aggredire una spesa di 4,5 miliardi di euro da qui entro l'estate, questo per cercare di evitare l'aumento dell'IVA previsto a ottobre. Ma così ci dicono che in 448 ci dice Giada che si possono recuperare 100 miliardi di euro, e ce l'avete tenuto nascosto fino adesso, cioè nel giro di quanto poi breve periodo? In un anno? E allora viene da dire, tutte queste tasse che sono state messe a cosa servono se si possono recuperare 100 miliardi? Oh, sono 100 miliardi di euro, mica due noccioline. Sta di fatto che il Messaggero a pagina 3 racconta sanità, enti e ministeri, ecco che parte la cura dimagrante. I primi interventi della spending review, racconta Luca Cifoni, assomiglieranno un po' ai vecchi e deprecati tagli lineari. Per il 2012 saranno fissati dei livelli di spesa, in particolare per sanità e ministeri, ai quali poi le amministrazioni interessate dovranno far seguire le conseguenti scelte concrete. Dunque, idea di tagli lineari. D'altronde uno va sul Sole 24 Ore a pagina 9 e scopre per esempio questa simpatica classifica. Sono anticipazioni che riguardano la sanità e i possibili tagli, anticipazioni di un lavoro che è fatto dall'autorità di vigilanza sui contratti pubblici, che oggi il Sole 24 Ore anticipa, appunto, riguarda le spese nell'ambito della sanità. Riguarda proprio le spese di garze, siringhe, farmaci. E il titolo è questo: Prezzi in libertà. Ebbene sì, racconta Valeria Uva, leggete la pagina 9 per rimanere stupiti, a dir poco, una siringa per l'insulina può costare 3 centesimi in una ASL, ma anche 65 centesimi, cioè 20 volte di più. Oppure gli inserti in ceramica per le protesi delle anche possono costare 284 euro, ma anche 2575 euro, con uno scarto dell'800%. E che dire degli inserti tibiali utilizzati per restituire mobilità al ginocchio? C'è chi li acquista a 199 euro e chi a 2479 euro. ASL, pubbliche, soldi nostri. E allora, nei valori rilevati dall'autorità sui contratti pubblici, differenze territoriali che arrivano fino al 1200%. C'è tutta la classifica delle spese di ASL e ospedali, quanto può costare ogni attrezzo indispensabile in materia sanitaria. Ecco perché poi la sanità diventa il piatto forte della spesa pubblica. Tra l'altro il giornale utilizza questo annuncio dei 100 miliardi di euro aggredibili di spesa da parte del ministro Giarda per dire in prima pagina: niente IMU, ora si può. Il governo si sbrighi, il ministro Giarda ha detto presto tagli da 100 miliardi alla spesa, e allora, scrive il giornale, non serve la tassa sulla casa. Cancellate l'IMU, visto che fa recuperare 3 miliardi, no, più o meno. E c'è Daniela Santanchè a pagina 3 intervistata che dice: cancelliamo la polpetta avvelenata dell'IMU e sfruttiamo questi 100 miliardi di spesa aggredibile. C'è una persona che è un po' in difficoltà politicamente, Roberto Formigoni, il governatore della Lombardia. Oggi sui giornali ancora nuove indiscrezioni, nuovi dettagli sulle vacanze a lui pagate. Tra poco. Ed eccoci qua allora. Formigoni, come detto, ieri in una nota ha ribadito, ancora dopo le notizie che sono emerse anche nel weekend, di vacanze a lui pagate, sarebbero state pagate da Daccò, il faccendiere che è ancora in carcere da vari mesi, e che non sarebbero mai state ripianate economicamente da Formigoni. Formigoni dice: non lascio, gli attacchi falliranno. E in questa nota ha ribadito: si continua a parlare di le vacanze, eccetera, ma la cosa importante è questa. Daccò ha o non ha tratto qualche indebito vantaggio dalla regione per il fatto di conoscermi? La mia risposta è sempre stata no. Se la stampa dimostrerà il contrario, mi assumerò le responsabilità, ma ciò è impossibile, ripeto, impossibile. La Procura di Milano ha ribadito ieri che Formigoni non è indagato, però certo ancora oggi emergono dei dettagli su questa vicenda, per esempio sul Corriere della Sera, pagina 9. Luigi Ferrarella e Giuseppe Guastella firmano un articolo che racconta la compravendita di una villa. 1 milione all'amico che compra in Sardegna una villa da Daccò. La vicenda è questa. Nel 2011 il governatore Formigoni versò al suo coinquilino con cui vive, una somma equivalente a 11 anni di stipendio, circa 1.100.000 euro, e con questi 1.100.000 euro è la stessa cifra con la quale questo coinquilino ha comprato una villa in Sardegna da una società riconducibile a Daccò. Parsimonia e amicizia, scrivono Ferrarella e Guastella, devono essere due valori molto cari a Roberto Formigoni, altrimenti non si riesce a capire come il presidente della Lombardia, che dichiara redditi per poco meno di 100.000 euro netti l'anno, nella primavera 2011 abbia dato 1.100.000 euro, cioè l'equivalente di 11 anni di entrate interamente risparmiate, al suo amico e convivente Alberto Perego, il quale dopo una settimana le ha usati per unirli a un mutuo da 1,5 milioni e rimpolpare così il gruzzolo con cui a rogito di fine ottobre 2011 è diventato il solo acquirente formale di una lussuosa villa in Sardegna da 13 vani, vendutagli da una società dietro la quale c'era, guarda caso, Pierangelo Daccò. Insomma, questa è la vicenda. Il governatore guadagna circa 100.000 euro netti l'anno, anche spalmando a ritroso lo stesso attuale livello di reddito, e salvo che la provvista di denaro origini da eredità o da dismissione di proprietà, il 1.100.000 euro a Perego equivale a 11 anni di stipendi interamente accantonati da formigoni, come se fosse vissuto solo d'aria nell'ultimo decennio. E la particolarità è, tra l'altro, è che a questo 1.100.000 euro coincide proprio la cifra per l'acquisto di Perego della villa costruita da Dacò in Costa Smeralda. Ma, racconta il Corriere, esistono altre ingenti e frequenti somme di denaro che negli ultimi anni sono passati negli anni passati Formigoni ha destinato all'amico Perego. Nel 2005 fino al 2009, a volte 25.000 euro, a volte 50.000 euro, con punte da 70.000 euro, alla fine il totale supera i 350.000 euro versati. Insomma, i giornali stanno scavando nelle spese di Formigoni, tanto che in prima pagina dell'Unità il titolo è questo, proprio l'apertura: Formigoni non può più restare. Il vice direttore dell'Unità Rinaldo Gianola firma l'editoriale dal titolo "Presidente incompatibile, Formigoni non è indagato". È vero, lo ripete pure il capo della Procura di Milano ogni volta che le inchieste aperte e le dichiarazioni degli indagati coinvolgono personalmente Formigoni. Bene, Formigoni non deve difendersi da accuse esplicite della magistratura, può denunciare la campagna mediatica, ma quello di cui oggi si deve discutere è se i comportamenti e le sue scelte di amministratore, se la frequentazione con certi personaggi indagati per aver rubato soldi pubblici e che sono sempre stati generosi con Formigoni e i suoi amici siano compatibili col prestigio e la trasparenza dell'istituzione che egli presiede da circa 17 anni. E Rinaldo Gianola arriva a concludere di no, insomma, che dovrebbe dimettersi. Anche per Repubblica, aerei, hotel, ristoranti VIP, i PM chiedono di individuare tutte le spese per il governatore. Insomma, un Formigoni in difficoltà. Mentre vi voglio segnalare quello che succede in tema di politica estera, dove gli occhi sono tutti puntati, gli occhi del mondo per la verità, anzi sono puntati poco, non come dovrebbero, sulla Siria, dove l'ultimo massacro, quello del villaggio di Hula, 100 erotti civili, tra cui diversi bambini, sono stati uccisi e sono state accusate di queste le truppe del governo del presidente Bashar Assad. L'ONU è arrivata alla condanna, ma come al solito l'ONU si divide, il Consiglio di sicurezza, la Russia e la Cina soprattutto sono contro un intervento militare o comunque un'azione di forza. Obama dice Assad lasci, ma la Cina e la Russia si oppongono. Vi segnalo su questo un'intervista al ministro degli esteri italiano Terzi sulla Stampa. È stato superato il limite, bisogna proteggere la gente. Intervistato da Francesco Semprini, dice il ministro Terzi, l'Italia è pronta a sostenere risoluzioni più robuste che tengano conto dell'emergenza umanitaria in Siria. Dopo aver espresso l'orrore, il dolore provato di fronte a queste scene strazianti, dice Terzi, ho chiesto che il Consiglio di sicurezza si riunisse subito, mi tengo in contatto con i ministri dei paesi più impegnati, il sostegno al piano Annan deve essere convinto e senza riserve, l'unica opzione che mi sento di escludere è che proseguano i massacri. Vedete, sono tutte dichiarazioni bellissime dell'arte della diplomazia, di tutto quello che si può fare, cioè pochissimo, quando non c'è di mezzo il petrolio, interessi economici molto forti, cambi di regime che si vogliono fare in maniera repentina, e quando c'è di mezzo un paese molto molto delicato nell'asse medio orientale come la Siria. Insomma, si può fare poco e niente se non assistere a questi massacri perpetrati giorno dopo giorno. E dunque quello che si può fare, sdegno, condanna, ma basta che nel Consiglio di sicurezza qualcuno si opponga a un intervento un po' più deciso e non si fa nulla, così da mesi, mentre i siriani muoiono. Intanto noi ci fermiamo qui, è tempo di giornale radio.